Food Lab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Portare l'agricoltura dove non c'è. Questo è uno dei temi principali di Foodlab, il programma che si occupa di tecnologia legata all'agricoltura e che racconta come ci ciberemo domani. E questa non è un'idea così, per essere originali. Sì, perché dove non c'è agricoltura comunque le persone ci sono. E quindi sarebbe davvero una bella cosa se potessero coltivare. Quello che stiamo per raccontarvi è una cosa davvero importante, importante oggi e importante ancora di più per il futuro. Lo facciamo con Giovanni De Paoli. Benvenuto De Paoli. Grazie, salve a tutti. Lei è un ricercatore dell'ENEA e lavora al progetto Freddas. Si tratta di risparmiare energia e creare possibilità di coltivazione in zone difficili del mondo. Voi state lavorando in Senegal, no? Ecco, ma che potrebbe essere uno dei tanti paesi, ci dica che hanno questi problemi, ci dica qual è proprio il senso di un'operazione di questo genere. Sì, il problema è un po' questo. Noi diciamo nel futuro abbiamo due problemi importantissimi. Il primo è dare un po' di energia a metà o poco più del mondo che non ce l'ha. Senza energia sappiamo che nessuno di noi, diciamo, può vivere dignitosamente. L'Africa, per esempio, in questo momento si trova con circa 950 milioni di abitanti, di cui forse 600 milioni non sanno più o meno cos'è l'energia. Ora voi capite che questa è una situazione insostenibile, perché senza energia non solo non puoi fare cibo, ma non hai sanità, non hai scuola, non hai illuminazione dentro una casa, non hai nulla. La seconda questione è che come fai l'energia per tutti questi popoli che non puoi farla più con i fossili, perché come ci dicono gli esperti delle Nazioni Unite, tra il 2010 e il 2050 noi dovremmo abbattere, diciamo ridurre l'uso dei fossili dal 40 al 70% se non vogliamo riscaldare il pianeta 2, 3, 4 gradi di temperatura medi. Questi due elementi ci hanno portato a fare un ragionamento sull'Africa, e cioè perché non portiamo le nuove tecnologie per lottare contro la povertà, per lottare contro i cambiamenti climatici. Questo è il senso della cosa. L'energia gli va data con nuove tecnologie, sostanzialmente con il sole. E quindi voi avete in realtà realizzato proprio un sistema agricolo di irrigazione e di produzione di energia intelligente, che appunto le chiederemo di illustrarci. Sì, noi abbiamo fatto, stiamo facendo due impianti fotovoltaici in due zone del Senegal piuttosto interne, non servite dalla rete elettrica, in cui diciamo con impianti fotovoltaici e con pompe elettriche, elettropompe ad alta efficienza, irrighiamo da una parte 40 ettari e dall'altra 20 ettari con un impianto fotovoltaico una volta di 100 kW in un caso, quello dei 40 ettari, nell'altro di 50 kW. Quello che abbiamo scoperto è che scegliendo componenti ad alta affidabilità, scegliendo componenti di alta efficienza, con il fotovoltaico arriviamo a produrre a costi inferiori a quelli che oggi il povero contadino africano deve sostenere per alimentare la sua vecchia motopompa, quella che funziona col motore diesel, quello diciamo della vostra autovettura. Perché? Perché il costo del gasolio è altissimo in Africa, e perché poi c'è l'alta manutenzione di queste pompe che più o meno ogni tanto bisogna manutenerle, si sfasciano e così via. E poi con un secondo grandissimo opportunità, che è quella che dicevo prima, noi non bruciamo più fossili, noi prendiamo l'energia dal sole. Fino a qualche tempo fa si pensava all'applicazione del fotovoltaico quasi impossibile in Africa per gli alti costi e per anche l'alta manutenzione che richiedevano. Invece adesso la situazione è cambiata, i costi sono molto più contenuti, quindi avete misurato proprio il risparmio. Assolutamente. Noi per esempio addirittura facendo dei conteggi con dei nostri casi studi, con diciamo anche con dei metodi di calcolo che abbiamo messo a punto, abbiamo visto che per esempio i nostri impianti, messi dentro tutti i costi, compresi anche diciamo gli interessi che si devono pagare a una banca per l'eventuale acquisto e anticipo di soldi per l'acquisto dell'impianto, noi abbiamo visto che possiamo arrivare a 30 centesimi per kilowattora, quando oggi il contadino ne dovrebbe pagare almeno 40-45 per la sua motopompa. Quindi quello che si vuole dimostrare, quello che si vuol dire è questo: tendenzialmente i costi del fotovoltaico, i costi di queste tecnologie non possono che diminuire, mentre invece i costi ovviamente dei fossili non potranno aumentare, perché adesso aumentare. Questo vuol dire che noi possiamo risolvere contemporaneamente due problemi, cioè dare energia con impianti anche scollegati dalla rete, non utilizzando, certo, ovunque. Ma questo progetto consente anche un ampliamento dell'attività agricola, che è uno degli altri problemi dell'Africa, perché sempre più la gente tende ad ammassarsi nelle grandi megalopoli africane e quindi abbandonando i territori. Se invece diventano più, molto più gestibili e produttivi dal punto di vista agricolo, questo fenomeno si ferma. Certamente. Il fotovoltaico permette proprio questo, permette un accesso all'energia rapido e meno costoso proprio nelle zone rurali dove la rete non arriverà mai. Col fotovoltaico io invece consumo l'energia là dove la produco. A tutto questo c'è da aggiungere un altro elemento, che è quello del risparmio idrico. Voi avete pensato anche a questo, cioè queste motopompe mettono, diciamo, caricano acqua e poi però non la distribuiscono come siamo abituati a pensare in maniera a pioggia, perché appunto in Africa il problema dell'acqua enorme. È fondamentale, e quindi avete pensato ad un'irrigazione goccia a goccia. Se in breve ci dice che cosa significa? Sì, significa che io non solo devo l'energia che devo usare la devo usare con alta efficienza, quindi cosa faccio? Scelgo una pompa che consuma poca energia mentre mi fornisce il suo servizio, ma poi devo anche usare l'acqua in maniera efficiente. Bisogna evitare di buttare l'acqua sulla pianta come oggi fa il povero contadino, prende un secchio e ci butta l'acqua, perché molta viene ovviamente sprecata, per il calore evapora, certo. E si spreca, fa crescere un sacco di piante infestanti intorno alla mia pianta e poi ci devo mettere anche dei pesticidi e quant'altro. Quindi lì c'è un sistema di irrigazione a goccia che significa dare a ciascuna piantina e solo alla piantina la quantità di acqua di cui ha bisogno. Quindi gocciolina per gocciolina, diciamo che non è un irraggiamento a pioggia, appunto, come dicevamo. Come c'è anche qui del resto, sprecando un sacco d'acqua. Ormai usato ovunque, e anche lì ci sono molte innovazioni che si stanno studiando, quindi diciamo che c'è un sistema anche nell'agricoltura continuamente che si sta studiando, che si sta aggiornando, che si sta innovando, che è veramente di grandissimo interesse per arrivare a fare questi impianti, appunto salvaguardando, diciamo, la fonte energetica ma anche l'uso dell'acqua. Va bene, grazie De Paoli, davvero in bocca al lupo per questo bel studio. Progetto. Buon lavoro. Grazie a voi. La cosa bella di questi progetti è che stanno davvero funzionando. Ok, per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata di Food Lab.